seminterrato di Stanford senza sole. Ragazzi benestanti cercavano un ruolo. C'erano guardie, c'erano prigionieri. C'erano sogni di scienza e potere. Un esperimento, un gioco crudele, dove il confine si fa sottile tra chi comanda e chi obbedisce, tra chi soffre e chi punisce. E l'effetto Lucifero scende giù nelle stanze buie dell'anima in più. Brave persone in ambienti sbagliati diventano mostri, diventano dannati. E tu, Zimbardo, guardavi anche te dietro gli occhiali, dietro al perché. Non serviva addestrare la crudeltà, venne da sola come verità. Un gioco di ruoli, una finta prigione, divenne inferno e tentazione. Un detenuto spezzato nel pianto, la scienza che perde il suo incanto. L'amore lo ferma, una donna lo guarda, gli dice basta e il diavolo tarda. E l'effetto Lucifero cresce in te quando il potere ti chiama a sé. Quando l'ambiente ti vuole carnefice e la coscienza diventa complice, chi sei tu se nessuno ti vede? Chi sei tu quando il buio ti crede? Sorvegliare e punire, diceva Foucault. La mente si piega, ma il corpo no. Un sistema che osserva e divide, e l'uomo obbedisce, il cuore si uccide. Pasolini l'aveva previsto, il male banale, il volto misto di chi nel lavoro, nel carcere ancora.